精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 不管驾驶速度有多慢， 不管车上是否有乘客， 不管是否停在红灯前， 不管是否有车载电话或蓝牙耳机， 不管谁给我打电话， 我承诺开车时不使用手机。 开车时不使用手机，不是因为你的手没有放在方向盘上，而是因为你的心不在驾驶中。 北京人民广播电台提醒您，开车时请勿使用手机。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。请欣赏卡雷拉斯演唱的一组世界民歌。 Le ciel bleu sur nos pays se fondrait et la terre peut bien s'écrouler.Si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Et tant que l'amour inondera mes matins, tant mon corps frémira sous ta main, que m'importeJusqu'au bout du monde, je me ferai teindre blonde. Si tu me demandais, j'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune. Si tu me la demandais, je renierai ma patrie, je renierai mes amis. Si tu me le demandais, oh papy, rire de moi, je ferai n'importe quoi.Si tu me le demandes, si un jour la vie s'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, que m'importe si.Dans le bleu de toute la cité, dans l'océan plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on s'aime. Dieu raïe giornata. J'aime la stimo ancora, plegat vam travessar una porta tancada. Ella com us en podré dir, era tot el meu món llavors, quan en la llar cremaven només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més. He tornat a trobar-la, però sovint em fer-se fosc. De lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells records, velles paraules d'amor. Havíem tingut massa temps per aprendre'n, tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, tenia 15 anys. Stelle chiamano, la notte fa, il giorno che vivrò non morirà, il mondo cambierò solo per te, è impossibile, ma non per me, sole o pioggia io contesterò. Sogni buttati via, io li vivrò, guardando a te vedrò l'immensità, nel mio mondo sei la verità, amore. dissolverò dovunque tu sarai. Ti porto tutto ciò che chiedi, a niente sembra troppo. Io splendo anche nell'oscurità quando sento che mi ami. Poi ti farò vedere com'ero io, la solitudine, il passato mio, ma le mie lacrime lontane già. Tutto è più facile e se tu sei qua, amore, quando tu mi ami io mi sento forte e ti salverò dovunque tu sarai. Ti porto tutto ciò che chiedi, niente sembra troppo. Io splendo anche nell'oscurità quando sento che mi ami. Senza te il mondo non può più girare, solo il tuo amore mi può che mi ami. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de selva y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos calió tu voz para recostarte arrullado en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar. cenizas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no duerme. Y si llama él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una boda antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina, vestida de 歩いてきた細く長いこの道、振り返れば遥か遠くふるさとが見える。でこぼこ道や曲がりくねた道、地図さえそれもまた人生。あ、川の流れのように緩やかに、いくつも時代は過ぎて、 La stanzurella fredda e scura ad una volta incetra se va sole no stengio solo tengo una paura che a poco a poco me consuma cor paura che mi struia malattia senza vedere ch'io a Napoli senza vedere ch'io a te vorria tornato te per ora sola a Napoli mia per te sentire cantare con mille mandoline vorria tornato te con mano vuota amore mio per te poteva sare me senti croce Kumbaya, Kumbaya, my lord, Kumbaya, Kumbaya, my lord, Kumbaya, Kumbaya, my lord, Kumbaya, oh lord, Kumbaya. In the sky, for the rhythm of the falling rain, for a life, great or small, for all that's true, for all you do. De carnaval e canta o meu coração alegria voltata feliz a manhã desse amor. Depois desse dia feliz, na ausência outro dia

the claws like brothers. The future's in the air, I can feel it everywhere, blowing with the wind of change. 하나 있지. Ad amor non vuol pare soli sotto, na non vero girana. Pur una soliva attorno gimion, non multara pur ugo. Grita non gasum, gasum mata, et sar lunda si dorme. Volver a sentir sun where my people have toiled since time. This is my island in the sun where my people have toiled since time began. Though I may sail on many seas, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, will to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, will to me by my father's hand. Your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Hello. 足的金山银银，流不断的绿水哟。 Joy. руках на своєї дротці когось токна, ніж он з очах смутно кіленько в'єць, вже мій воч'єць шестим тем, чого му брак зоду дашив, дашив. Vogliamo strade nuovi, cieli ci tentano. Dove vai, il sogno tuo dov'è? Le folle sì ti seguono ovunque vai. Lasci segni tuoi e la tua verità, ma dentro vuoto sei senza amore, senza amore. Chi corre troppo non se ne accorge di un tesoro, crede che abbia quel che vuol. Digli che c'è un amore da trovar. E se riesci a fermarti ancora un po' e domandar che importanza la corsa che per noi persa è già, persa è già. Ma sei fortunato se in questa corsa confidi con un amore sognato già. Forte con tutto il cuore, tentale amore non tornerà. Sei fortunato se all'improvviso senti un amore più profondo del mare blu. Seguilo che un amore, tale amor, non tornerà mai più. 接下来请欣赏安德烈·博切利演唱的一组意大利民歌。 Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande che fuoco di collina. Io piango che pazzia fu andarsene poi via. Melodia, inno dell'amore, te la canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che il mio destino, amaro senza te. Il cuore